Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Scusatemi se non sono forte, ma non ce la faccio più a sopportare. Con la gente ho avuto già troppa pazienza. Non voglio più perdere tempo. Alle 3 ho sentito bussare alla porta. Lei è il papà di Carolina? Ho detto sì. Carolina dov'è? Ho detto guardi, Carolina è nella sua stanza. Infatti ho aperto la porta della stanza. Carolina non c'era, però ho visto che la finestra era spalancata. A quel punto i carabinieri mi hanno preso, mi hanno trascinato fuori e mi hanno portato giù dalle scale. Mentre scendevo dalle scale ho visto che c'era una croce rossa che partiva. Poi mi hanno incominciato a dire che Carolina si era buttata giù dalla finestra. A parlare è il padre Paolo di Carolina Picchi, una studentessa di 14 anni, piemontese, che nel gennaio 2013 si è suicidata in seguito alla diffusione in rete di un video in cui la riprendeva in atti di tipo sessuale. Questo è stato l'episodio che ha determinato a maggio del 2017 l'approvazione della legge sul cyberbullismo. Questo episodio è tratto da un programma che è trasmesso in questo periodo sul canale Crime Investigation, che è un canale Sky, un programma fatto in collaborazione con la Polizia di Stato, che si chiama Connessioni Pericolose, che ci ricorda quello che è accaduto di grave, di funesto, di cruento, nell'uso non appropriato della rete. Tra un po' sentiremo altre testimonianze, sentiremo i responsabili del programma, sentiremo la Polizia di Stato, avremo persone addette ai lavori che ci danno una cornice rispetto a questi episodi. Però vorrei fare una piccola riflessione preventiva con i miei ascoltatori. Ancora si parla di nuove tecnologie, ancora qualcuno parla della rete come qualcosa che rappresenti il futuro, ma in realtà rappresenta ampiamente la nostra contemporaneità. È una nostra dimensione dell'esistere. La rete è esattamente come tante altre arcaiche, precedenti, antiche modalità di espressione della nostra personalità. La rete oggi sembra alla portata di tutti perché l'accesso alla rete, la condivisione di propri patrimoni personali, individuali, di conoscenza, di intimità, di vita quotidiana, sono facilmente condivisibili con gli altri. Perché da quando esistono gli smartphone, da quando esistono le app e soprattutto da quando esistono i social network, questa attività che nei primi anni della rete, io parlo della rete nella percezione che ne abbiamo nel nostro paese, diciamo dal 95 in poi, quando hanno cominciato a circolare i primi browser inseriti nei sistemi operativi alla portata di tutti, facilmente usabili e decodificabili, non serve più una particolare conoscenza, non servono strumenti esoterici. Chiunque nell'attimo stesso in cui compra un telefono, che è tutto meno che un telefono, ma è una protesi che ci espande verso il mondo, deve avere la cognizione in realtà di questa sua esperienza, di questo potenziamento di una sua capacità di porsi nei confronti del mondo. Non sono mai stato un catastrofista della rete, sono sempre stato uno molto ottimista, ho sempre visto un grande interesse, un grande divertimento, quello che potrebbe venire dalla rete, però vi assicuro nei primi anni in cui eravamo in pochi a frequentare la rete, noi facevamo un programma alla radio in cui parlava di rete e ti chiamavano i direttori generali della RAI, dicevano ma che è sta roba di internet, di che stai parlando? Parlo del 96-97, quindi per far capire oggi come è andato veloce il movimento. Beh, allora si ha l'impressione di avere a che fare con una comunità fantastica, creativa, che stava progettando quello che sarebbe stato il mondo futuro, in cui i patrimoni di cultura, di esperienza, di conoscenza potevano essere messi in condivisione fra le persone. Beh, oggi la rete, nella percezione che ne abbiamo in questo momento è esattamente il contrario. È il regno della menzogna, è il regno del populismo, è il regno delle leggende, è il regno di una sorta di mitologia che nulla a che fare con quelle che erano le premesse di una cultura digitale. Ma soprattutto la rete è il luogo in cui si è disperso il senso dei limiti della nostra vita privata, dei limiti della nostra relazione. E le storie che sentiremo in questa puntata, che riprende le storie che sono trattate in televisione in connessioni pericolose, danno l'esempio proprio come c'è un grande cammino da fare in questo momento, anzi un'importanza di alfabetizzazione velocissima, non tanto sugli strumenti di accesso della rete, non tanto sulle modalità di connessione, questo sembrava che si dovesse insegnare, si diceva ti insegno a usare il computer. Oggi il computer fa parte dei nostri usi quotidiani, come lo spazzolino da denti. Una volta che ci viene spiegato da bambini come ci si lava i denti, li laviamo tutta la vita nella stessa maniera. Una volta che si acquista uno smartphone, si capisce come si accende, il resto va da solo. No, bisogna capire come disporre del patrimonio della propria vita nel momento della massima connessione con gli altri. Che è un momento fantastico, ma può essere anche un momento deleterio e funesto per la nostra vita. 800 24 00 24. Quando avete avuto la convinzione che in realtà le vostre connessioni, cioè le vostre relazioni, potessero rappresentare per voi un pericolo? A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Questa è la storia di due ragazze che all'età di 11 anni, incuriosite dal mondo nuovo dei social network, hanno aperto un profilo su Facebook, falsificando la loro età e ignorando i rischi della rete. Tutto è cominciato via Facebook. Mi ha mandato un messaggio e abbiamo cominciato a parlare. Parlavo soprattutto di cavalli e del modo in cui i cavalli ci legavano. Credo che sia stato all'inizio del 2011. 800 24 00 24, quello che sentite sono testimonianze prese dalla trasmissione online Connessioni Pericolose, che sta nei canali di Crime Investigation. La seconda puntata andrà in onda proprio martedì alle 22 su canale Crime Investigation. La trasmissione è condotta da Elena Stramentinoli. Buongiorno. Buongiorno. La conduttrice online Connessioni Pericolose, che come ho già detto è un programma che racconta i casi più importanti di cybercrime. Vi siete posti un problema, è brutta la parola, sembra quasi una bestemmia, ma un po' anche didattico, per far capire cosa potrebbe succedere, perché nello stile di narrazione costituito adesso c'è un po' di pathos, cioè c'è l'idea che vogliate far capire, non è proprio tutto un gioco. Assolutamente sì, diciamo che l'idea del programma nasce anche un po' da questo, perché si è pensato per questo motivo anche ad una collaborazione con la Polizia Postale, quindi con la Polizia di Stato, con la sezione della Polizia che si occupa proprio di monitorare la rete e i crimini che avvengono sulla rete. Perché l'idea era sì, raccontiamo quello che succede, ma cerchiamo anche un po' di aprire gli occhi, perché insomma la cosa che anche a me ha colpito facendo questo programma, insomma, quindi intervistando le persone, quanto in realtà ci sia scarsissima consapevolezza di che cosa voglia dire la rete. Ascoltavo con interesse la parte iniziale della trasmissione e appunto esattamente questo, cioè manca l'alfabetizzazione, come dicevi tu. Cioè noi sappiamo accendere un computer, sappiamo perfettamente come collegarci, ormai tutti abbiamo i social network, no? I nostri genitori, i nostri figli, tutti, ma in realtà quello che mi ha colpito e che riguarda anche me, riguarda tutti veramente, è questa scarsissima consapevolezza di che cosa voglia dire la vita online. Ecco, tu diciamo, fra i casi che avevi trattato, io ne ho citato uno, ho citato il caso Picchio, ma ce ne sono stati molti altri, adesso non ricordo esattamente di cosa parlerete domani qual è l'argomento? Allora, domani sera avremo due storie, una è quella di Laura, una ragazza che abbiamo intervistato perché noi abbiamo tutte le testimonianze dirette, che ci racconta della sua storia, che è una vendetta sessuale, una vendetta pornografica, cosiddetto revenge porn. Il revenge porn, lo sintetizzo per il pubblico. Esatto. Una coppia sta insieme, si vuol bene, si ama, ha una storia d'amore, la storia finisce, e soprattutto se finisce perché la donna non vuol più saperne dell'uomo, come è lecito. L'uomo non accetta questa sconfitta e probabilmente non era una storia d'amore, ma era una storia di possesso, di narcisismo. Comincia a far circolare con i suoi amici su siti adeguati, aprendo dei gruppi Facebook, ne abbiamo parlato spesso, immagini della loro intimità. Ora, non giudichiamo chi in una storia d'amore vuole lasciare anche i momenti epici della propria unità, della propria intimità, fatti loro. Però esatto. È da considerare il fatto che se tu fai l'amore con il tuo fidanzato o con la tua fidanzata, ti va di riprenderti, sappi che è una cosa molto rischiosa, perché l'amore non può essere sempre eterno e le persone cambiano. È questo il senso? Sì, esattamente questo. La fiducia che ti lega a un certo punto viene a mancare. E la ragazza che noi abbiamo intervistato, appunto Laura, esattamente questo. Cos'era accaduto a Laura? Cos'era accaduto? Laura si era fidanzata, si era innamorata, aveva conosciuto questo ragazzo che peraltro era un esperto informatico, quindi, come dire, lei non ci aveva minimamente pensato a questa cosa, però si conoscono su un sito di incontri, si fidanzano, l'amore esplode praticamente subito, addirittura decidono di sposarsi, cioè lei è molto giovane, ma tipo 19 anni, 20 anni. E niente, quando poi lei si accorge che lui è un po' morboso, geloso, la controlla, eccetera, di fatto è già troppo tardi, perché lui aveva già iniziato a fare delle foto, dei filmini, no, di loro insieme. Ma lei era, inconsapevole, non era consapevole? Lei era consapevole, Vabbè, ci facciamo l'amore, ci riprendiamo, carino, che bello. Sì, questo, non era molto contenta, però per amore si fanno, no, queste cose. Ma sì, okay, ma adesso non facciamo i moralisti, che sembra esatto, da quando esistono i telefonini la tentazione può venire, diciamo che assolutamente, ecco, non c'è moralismo in questo, perché tutti noi siamo, come dire, siamo tutti uguali in questo. Cioè possiamo tutti fare questi, chiamiamoli, errori di leggerezza. Vabbè, no? Uno si vuol bene, sì, è un momento di divertimento, già non ci pensa, pensa che non ci sia niente di male. Esatto, invece poi alla povera Laura è successo che l'ex ragazzo, tra l'altro esperto, quindi ha tentato anche di cancellare, no, tutte le prove, le tracce lasciate sul computer, eccetera, ha cominciato a pubblicare questi pezzoni di video, alcune foto di lei in biancheria intima sui siti porno. E la ragazza ha cominciato a ricevere telefonate dando anche il suo telefono, come accade spesso, sì. Sì, quindi questa ragazza, ma non solo il telefono, anche l'indirizzo, per cui si è trovata più di una volta persone che andavano da lei convinti di aver preso appuntamento con una prostituta, di fatto. Sì, diciamo quindi, che è la versione telematica dei telefoni che molte volte la gente scrive nei gabinetti delle degli autogrill, sì, che quando sono le vendette, voglio maschi bollenti, mette il telefono magari di un'amica o di un amico, peggio ancora, capito? E quindi gli rovini la vita. Con l'aggravante che la rete moltiplica a dismisura tutto, completamente, quindi se la scritta all'autogrill la possono vedere, non so, 1000 persone, faccio un esempio. Sì, in rete, sulla rete è infinito, no? Il numero, in teoria. Esatto. È potenzialmente infinito, e infatti la visualizzazione che hanno avuto questi video è stata esponenziale. Allora, Elena Stramentinoli, che ricordo che è la giornalista che ha condotto online Connessioni Pericolose, ci sta cominciando a raccontare le testimonianze dirette. Ora, sono episodi che è difficile raccontare, ma sono episodi molto diffusi, al di là dei casi emblematici che poi hanno meritato l'onore delle cronache. Vediamo se è possibile dare qualche consiglio pratico, e vediamo se è possibile, chiamando all'800240024, integrare quello che già ormai è passato alla storia dei nostri giornali con esperienze personali, senza necessariamente scendere nell'identificazione, per far capire come il percorso è molto semplice. Capiamolo dal punto di vista anche chi poi deve procedere, quando poi questi atti assumono a tutti gli effetti le fattispecie di un reato. Dottor Ivano Gabrielli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È il vicequestore del Centro Nazionale Anticrimine Informatico della Polizia Postale, CNAIP. Esaminiamo quest'ultimo caso. La vendetta amorosa e sessoamorosa, poi amore non c'è più, quando si fanno queste cose è un atto odioso. Come riuscite voi poi in qualche maniera a mettere un limite al danno che è stato fatto, e quali sono gli strumenti per procedere nei confronti di chi l'ha causato? Beh, ovviamente gli strumenti sono gli strumenti che ci vengono forniti dal codice e quindi dalla nostra attività, nel senso che poi spesso e volentieri riceviamo una richiesta di aiuto più che una denuncia, così. Ma è un reato a tutti gli effetti farlo? A tutti gli effetti è un reato, stiamo parlando di un'illecita trattazione di dati personali e quando non si arriva a reati più gravi, anche qualificabili dal punto di vista informatico. Mi riferisco soprattutto agli accessi abusivi, al danneggiamento, quando magari le immagini vengono acquisite tramite un accesso per l'appunto abusivo ad uno strumento informatico che può essere lo smartphone piuttosto che il PC della nostra vittima, si sottraggono immagini e poi vengono divulgate in rete e quant'altro. In ogni caso la diffusione in rete di un filmato intimo senza il consenso dell'altra persona è comunque un reato. Ovviamente si tratta, come ho detto, di un trattamento illecito di un dato personale, di un dato sensibile, e quindi è sanzionato dal codice della privacy. Secondo lei hanno la consapevolezza di compiere un reato penale? Quelli che magari questo è un caso di vendetta sessuale articolata, ben strutturata. Molte volte anche ragazzi di scuola fanno un piccolo video, lo mettono in giro così, se lo passano su WhatsApp, poi qualcuno lo mette in rete. C'è una consapevolezza, soprattutto nei più giovani, che quello è un reato grave? Ecco, ha detto proprio bene, cioè nel senso che manca la consapevolezza, soprattutto in alcune categorie di persone, soprattutto a quelle che hanno età anagrafica più bassa, cioè hanno più la consapevolezza di compiere una goliardata piuttosto che di compiere effettivamente un'azione che poi sfocia in un comportamento sanzionabile penalmente. E ovviamente col crescere dell'età questa consapevolezza cresce, ed è quindi magari nel caso di cui abbiamo parlato prima, nel caso di Laura, sicuramente c'è in chi la fa, deve esserci quantomeno la consapevolezza di creare un enorme danno all'altra persona, sia dal punto di vista delle conseguenze psicologiche, ma questo non è il mio campo, ma anche dal punto di vista della gestione dell'immagine, della gestione di quella che è la propria vita privata, fino ad arrivare quindi all'integrazione di reati che potrebbero essere anche quello dello stalking, cioè nel senso che lo stalking nel nostro ordinamento è un reato molto peculiare, però al centro proprio la modificazione di quelle che sono le proprie abitudini personali, il non poter uscire di casa, il non poter più relazionarsi con il mondo sociale che ci circonda, è sanzionato anche in maniera seria dal nostro ordinamento, appunto con il reato di stalking. Diciamo che è anche molto difficile, una volta fatto il disastro, ovviarlo, perché quando certi dati ormai cominciano a circolare in rete, a diffondersi, uno può fare degli sforzi, ma è difficile toglierli. Purtroppo sì. Anzi, è impossibile, diciamolo, perché sostanzialmente quando pubblichiamo il nostro dato in rete ne perdiamo il controllo. Pensiamo a chi lo pubblica, lo diffonde proprio con l'intenzione di creare un ulteriore danno e quindi lo posta, lo pubblica in piattaforme che hanno poi origine in giro per il mondo. Diventa difficilissimo andare a rincorrere le varie situazioni e quindi poi arrivare a procedere con una richiesta di rimozione che prevede tra l'altro la cooperazione di altre forze di polizia, quindi canali rogatoriali, con tutto ciò che comporta in termini di tempo. Per questo che quello che diciamo soprattutto a chi è vittima di un fatto di questo tipo di muoversi rapidamente, perché in questo caso la velocità perlomeno permette di contenere in qualche modo il danno, se non evitarlo quando è estremamente tempestivo l'intervento di una forza di polizia. Ecco, lei se dovesse farci un elenco degli episodi che più l'hanno colpita, dottor Gabrielli, quale metterebbe all'origine? Quelli che forse hanno scatenato poi degli episodi di suicidio, forse sono quelli che più fanno riflettere, ma sono quelli che sono più gravi o è dovuto anche, non so, a circostanze momentanee, particolari, soggettive, ambientali delle persone che poi su questo sono diventate vittime reali? Ma diciamo che purtroppo le dinamiche sono comuni, la storia di Laura è comunissima ad altre situazioni. C'è un altro fenomeno molto importante in questo momento che è il fenomeno delle sex extortion, quindi praticamente persone che credono di aver trovato in qualche modo una relazione corrisposta in rete, ma in realtà sono vittime di una truffa ben grave, quindi di un'attività estorsiva successiva che è a margine di attività videoriprese, di sexting, così vengono fatte in rete e poi vedono richieste altissime di riscatto, minaccianti di veder diffusa e pubblicata la propria vita sessuale, in quel momento un atto sessuale che viene compiuto in rete online con un partner dall'altra parte. In questo caso abbiamo visto vittime che hanno pagato cifre anche molto molto molto importanti, nell'ordine di decine di migliaia di euro, piuttosto che poi vedersi in qualche modo suicide anche in questo caso. Diciamo, le vittime sono maschi e femmine in maniera indifferenziata? Oppure... Abbiamo un'alta percentuale in questo caso di maschi, però purtroppo il fenomeno è diffuso anche tra le signore che vengono magari corteggiate per lungo tempo in rete e poi vengono portate a fare degli atti di autoerotismo di fronte alla telecamera, vengono riprese e poi quel video diventa lo strumento di tortura da parte di un soggetto che sta dall'altra parte. Ecco, forse proprio il consiglio da dare, anche se mi rendo conto non è un vicequestore ma nemmeno un giornalista può dare questi consigli, dovrebbe venire da una percezione di buonsenso di quello che abbiamo intorno, capiamo le passioni, capiamo i desideri, capiamo la maniera di giocare, di divertirsi, figuriamoci, nessuno vuole qui dare delle regole di ordine morale, ma che quanto sia altamente pericoloso comunque fare queste cose, forse è il caso di dirlo, dottor Gabrielli. Sì, è altamente pericoloso, quello che noi notiamo è che soprattutto nelle vittime purtroppo c'è spesso e volentieri la perdita di quella che è il senso della realtà in quel momento, cioè si pensa di essere in un mondo diverso, in una realtà virtuale che permette di fare determinate situazioni e che poi anche se magari ci porta a fare attività che non faremmo magari nel nostro quotidiano, non capiamo che poi alla fine quel tipo di azione si riverserà nel nostro quotidiano. Cioè bisogna cominciare a capire che non esiste più una differenza, una sostanziale separazione tra quella che è la vita reale e la vita virtuale. Dobbiamo cominciare a capire che come riusciamo ad acquistare, a fare contratti a distanza attraverso lo strumento telematico, è vero pure che anche azioni della vita reale vengono fatte virtualmente e viceversa ciò che è virtuale ormai filtra totalmente. È inscindibile la nostra vita virtuale da quella reale, pensiamo a quella che è la nostra vita sociale con il nostro smartphone, cioè non possiamo dire di non essere in comunicazione quando messaggiamo con WhatsApp o quando postiamo qualcosa su Facebook tramite il nostro smartphone, siamo in comunicazione alla stessa stregua di quando ci troviamo al bar o a cena con i nostri amici. Poi diciamolo, dottor Gabrielli, poi diamo la linea, ci sentiamo fra un istante. Quando la gente legge sui giornali intercettato quel particolare personaggio della politica o della finanza, oppure intercettato quel particolare personaggio della malavita organizzata, vuol dire che comunque in qualche maniera sono strumenti aperti. Se c'è una lecita intercettazione da parte della magistratura, delle forze di polizia per accertare un reato, con la stessa maniera comunque, con espedienti, con escamotage, chiunque può entrare nella vostra vita privata, quindi è ancora più importante avere salvaguardia di quello che noi mettiamo di noi stessi nelle nostre protesi emotive. Ci fermiamo un istante, a tra un istante veramente. Melog, cronache meridiane. Prima di entrare nell'argomento di oggi, un piccolo strascico rispetto alla trasmissione di venerdì in cui abbiamo parlato di bambine modelle. Abbiamo in studio Flavia Piccini, che era l'ospite della trasmissione, che si trovava a Pitti Bimbo, dove sta appunto seguendo, questa è in questo momento la sua attenzione professionale, le bambine che sfilano come modelle. C'è stata una mamma che aveva telefonato, che già aveva risentimento e non era in accordo con quello che dicevamo, ma poi c'è stato un grande clamore, hanno chiamato altre mamme, Flavia, tanto che oggi ci siamo sentite in dovere di chiamarla in studio e spiegare cosa è successo. Sì, praticamente durante venerdì nel trambusto della diretta e anche forse per la passione che mi sta portando in queste settimane a seguire questo mondo, alle decine di interviste a mamme e bambine che ho fatto, ho citato erroneamente una bambina che si chiama Kayla e a cui io chiedo scusa sia a lei che a sua madre perché ho riferito parlando di lei le situazioni di un'altra persona. Cioè hai fatto, quindi, una confusione fra due bambine. Ho fatto confusione fra due bambine nella diretta concitata sotto il sole di Firenze e Kayla l'ho conosciuta durante una sfilata e mi aveva addirittura invece colpito per essere un caso positivo, quindi chiedo scusa sia a lei che alla mamma. Va bene, non siamo d'accordo che né la mamma né Kayla si sentano offese, perché in fondo parlavamo di bambine caroline che sfilavano, bambine che si vedono nei giornali, bambine che si vedono nei servizi fotografici. È scappato a Flavia Piccini un riferimento a una bambina che invece non era assolutamente proprio per quella bambina. Ma avevo mandato una richiesta d'amicizia su Facebook. Dopo un po' che parlavamo mi ha iniziato a mandare delle sue foto, prima in intimo, poi senza. Speravo che qualcuno mi trovasse, avevo bisogno di aiuto. Ecco, queste sono alcune testimonianze per far capire qual è l'escalation in una storia amorosa, una storia di passione, nata, sbocciata in rete, e su questo nessuno si debba sentire in qualche maniera discriminato. Io penso che oggi il 90% delle storie di affezione, di amicizia, di passione, d'amore nascono attraverso gli strumenti di comunicazione della rete, anche un WhatsApp che ci si manda dopo essersi visti a una festa, anche un'amicizia su Facebook che poi dimostra i lati simpatici. È un normalissimo sistema di approccio, però un sistema di approccio che è come una lama a doppio taglio. Se ci colpisce, ci apre, ci impressiona, velocizza tutti i passaggi che portano da una semplice conoscenza a una fulminazione amorosa, d'altra parte può lasciare ferite che non si rimargino. Elena Stramentinoli, allora vediamo un po', voglio sapere proprio dal tuo punto di vista, tu che le persone le hai viste, le hai conosciute, ci hai parlato, l'impressione hai avuto che siano persone esattamente come quelle che ci stanno ascoltando, esattamente come noi, non sono particolarmente sprovvedute, mi stanno arrivando messaggi sugli sms, ma qui sono dei cretini, non immaginano, non sanno, tutti bravi quando accade agli altri, vediamo di riportarlo in termini di realtà. Esatto, no, allora come ho avuto modo di dire anche prima, siamo tutti esposti. Ora, le passioni, i sentimenti, no? L'amore, l'amicizia sono sentimenti universali che tutti viviamo e abbiamo vissuto e vivremo. Le persone con cui ho avuto modo di parlare non sono diverse da come sono io, magari alcune sono semplicemente più piccole, le voci che abbiamo sentito in questo caso erano di due minorenni, una ragazzina di 11 anni e l'altra di 14. Quindi probabilmente più esposte, più deboli, ma questo... Ecco, vedi com'è diverso il passaggio. Prima la collega ha fatto una rettifica, aveva parlato di bambine che sfilavano nelle sfilate di moda, sì. Aveva detto le cose non esatte, le mamme subito hanno telefonato, le hanno protette. Ma invece questo è una parte della vita delle stesse bambine che le mamme non hanno modo, occasione o strumenti per proteggerlo. Che non conoscono anche molto spesso, perché le ragazzine che abbiamo intervistato avevano dei profili aperti all'insaputa dei propri genitori, quindi anche volendo un papà e una mamma come facevano a sapere che la loro figlia appunto stava in chat magari 12 ore consecutive, perché ci hanno raccontato anche questo di ragazzine, certo, di bambine. Sembra difficile non accorgersi che una bambina sta 12 ore attaccata allo smartphone, evidentemente l'attenzione non è poi così vivace. Scusami un attimo Elena, dicevo, stiamo parlando di una trasmissione che va su un canale Sky, Crime Investigation, si chiama Connessioni Pericolose. Mi sento di dire onestamente, questo sarebbe un programma da trasmettere nelle scuole. Sta riempendo, da quello che sto capendo, un vuoto istituzionale e anche un vuoto didattico, perché magari si insegnano le discipline che tradizionalmente sono sempre state insegnate alle scuole, ma di questo a scuola si parla poco. O ti risulta, Elena, che ci sia un lavoro un pochino più adeguato rispetto a quelle sulle necessità? No, da quello che risulta a me so che si parla adesso molto di cyberbullismo, questo sì, che ci sono comunque nelle scuole, insomma, con l'autonomia che hanno i presidi, soprattutto alle scuole medie, primi anni delle superiori, si fa qualcosa sul cyberbullismo. Si fa poco niente invece per l'educazione all'utilizzo, che passiamola così, insomma, l'educazione all'utilizzo della rete, che non vuol dire averne paura, che non vuol dire demonizzare, io sono perfettamente d'accordo, è uno strumento meraviglioso che ci apre e ci dà delle enormi possibilità. Però dobbiamo essere consapevoli e nessuno spiega a questi ragazzi, ma neanche noi adulti che non siamo nativi digitali, nessuno ci spiega come ci si debba comportare. Certo, basta il buon senso, d'accordo, però il buon senso a 14 anni magari non sempre ce l'hai così sviluppato, no? O comunque quando sei innamorato, quando ti senti solo, sei più esposto, tutto qua. Quindi forse effettivamente uno dice non mandarla la foto, sì certo non la dovresti mandare nel mondo ideale, però poi alla fine ti fai prendere il mano e lo fai. Elena, tu sei molto giovane, ma la generazione che ha preso, quanti anni hai? 40, quindi sei attempato. Quindi non sono nativa digitale. Io sento la voce, non vedendoti, attentoti al telefono. Sì, però ecco, comunque capisci che è quello che esattamente le tue zie, le tue mamme, le tue nonne dicevano: ah, sai, ha fatto una sciocchezza, che magari era, che ne so, far l'amore col fidanzato prima del matrimonio. Sì. Erano le sciocchezze irrimediabili allora, ti ricordi? Sai, che ti segnavano magari tutta la vita. Si rimaneva zitelle perché si sapeva che comunque ha avuto un fidanzato con cui era andata a letto. Sì. Quelle erano le sciocchezze. Oggi lo stesso livello di sciocchezza però è qualcosa che ti segna paradossalmente, anche se non ti tocca nell'aspetto, nell'integrità fisica, chiamiamola così, ti tocca nella tua identità in maniera molto più profonda. Sì, ti distrugge anche, perché queste ragazzine, poi ripeto, perché sono state storie che mi hanno comunque molto colpito, queste donne, queste ragazze, chi per un problema, chi per un altro, chi per vendetta, chi per ricatto, comunque non sono più le stesse persone, hanno delle ferite veramente dentro. E la cosa che mi ha colpito intervistando uno dei carnefici, chiamiamolo così, uno di questi criminali, insomma, che tra l'altro era anche un pedofilo, che mi ha detto: vabbè, ma io non avevo per niente consapevolezza che dall'altra parte ci fosse una persona reale, cioè un uomo di quasi 40 anni mi ha risposto una cosa così. Sì. E io non pensavo di fare del male veramente a queste ragazzine, no? Ma questo la convince Ivano Gabrielli, ricordo vicequestore del Centro Nazionale Anticrimine Informatico della Polizia Postale, che non ci sia poi consapevolezza di far del male a chi compie azioni molto mirate, perché aprire un profilo Facebook come quelli dedicati alla pastorizia, via dicendo, in cui poi strumentalmente si mostra l'attenzione degli altri del branco, la propria ex fidanzata, dicendo: guarda la cagna come si comporta, secondo lei c'è tutta questa inconsapevolezza? No. No, non sono convinto di questo. La consapevolezza c'è, soprattutto c'è nel disprezzo che si mostra verso la vittima, spesso e volentieri messa definitivamente ad una gogna mediatica. Si vuol far del male, forse non c'è la consapevolezza di quanto male, di quanto sia effettivamente poi la portata di quel gesto, perché poi, come ripeto, si pensa magari di mettere la gogna all'interno di una cerchia limitata di persone, un determinato soggetto, ma lì non si accorge che invece ci si sta affacciando sul mondo. Il web ha un effetto catalizzatore che, se vale per l'economia, vale anche per i rapporti sociali e anche purtroppo per le azioni diffamatorie, delittuose come queste. Lei ha parlato spesso con persone che compiono questi atti, le è capitato di interrogarli, di vederli, o non fa parte, diciamo, dei suoi compiti? No, parliamo spesso con loro, ovviamente per ragioni proprio istituzionali. È ovvio che il confronto al termine delle indagini o nel corso delle indagini con chi si è reso autore di atti di questo tipo è costante. Ci riesce a tracciare una tipologia, per quanto sia sempre approssimativo e sommario, per capire che persone sono? Sono anche loro persone normali, come sono normali le vittime? Ma assolutamente sì, ma questo purtroppo vale per tutte le fattispecie di fenotipi criminali, quindi non soltanto per i nostri, diciamo, criminali attenzionati. Quindi questo vale anche per chi compie omicidi o per chi compie... Anche un serial killer sembra normale. Sì. Diciamo che ha una parvenza di normalità che viene dissimulata, che comunque viene gestita in qualche modo. Ma il loro atteggiamento qual è? Fanno i pentiti, si dispiacciono oppure sono spavaldi in linea di massima? Alcuni sì, quando soprattutto si rendono conto poi della dimensione che ha avuto l'azione delittuosa che hanno posto in essere. Altri continuano a far finta di non percepire, o altri sono mossi da intenti vendicativi che di fatto coprono in qualche modo diciamo il buon senso di chi invece deve rendersi conto di aver fatto del male ad un soggetto. Diciamo che la mascolinità offesa in una sua percezione arcaica e totalmente fuori del tempo prevale su tutto e non ci si fa rendere conto. Abbiamo delle persone in linea pronte ad intervenire, 800 24 00 24. Spero che questa trasmissione, che fa parte di quel corredo di argomenti scabrosi da trattare, abbia perlomeno un po' di seguito attivo da parte del pubblico. Vedo un po' stanchi stamattina, a tra un istante. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Lorenzo, buongiorno. Sarò brevissimo. Io trovo la cosa molto grave che ci sia dell'anonimato questa gente che appare in questi social, e il gestore, in genere americano o giù di lì, si rifiuta di dare le generalità. Ora, è importante sapere chi ho dall'altra parte, cioè le generalità di costui, perché se lo devo querelare, io devo sapere chi è. Sì, comunque anche se querela una persona se in un altro paese, partirebbero delle rogatorie talmente complicate che sarebbe un po', ce lo confermerà o ce lo smentirà il dottor Gabrielli. Quindi lei direbbe, dovrebbe esserci una maggiore trasparenza sull'identità delle persone che sono nei social network. Un'assoluta trasparenza, non una sapienza. Però è una delle caratteristiche della rete, uno può anche rappresentarsi. È mai possibile che io riceva tutte le settimane, per esempio, una mail falsa delle Poste, che sono siti russi, perché ogni tanto i cretini sbagliano e scrivono delle lettere in giro. Phishing, ecco, io voglio sapere, ma è possibile che non si possa capire chi è quello? Quella è una truffa informale. Ho capito, ma siamo sempre nella stessa roba, insomma. Vabbè, vediamo subito, facciamo rispondere subito a Ivano Gabrielli, ricordo, vicequestore del Centro Nazionale Anticrimine Informatico della Polizia Postale. Me lo scrivono in molti, dottor Gabrielli, ma non è che in questo momento noi possiamo cambiare le regole di tutta la rete dall'Italia. Però quali sono i limiti che avete voi quando dovete muovervi per l'identificazione di un reato? Come ho detto, i limiti riguardano soprattutto al fatto che ci si muove in un contesto worldwide, certo. Nel senso, nel contesto nazionale è ovvio che abbiamo degli strumenti che ci vengono dati ovviamente dal codice e dall'autorità giudiziaria, e ci permettono quindi di richiedere ed ottenere immediatamente i dati. A livello mondiale dobbiamo comunque tener conto delle legislazioni internazionali. Ricordiamo, è sembrato impossibile avere dalla Apple l'apertura di un cellulare in cui c'erano i dati importantissimi per, diciamo, un caso di cui si parlava in tutto il mondo. Però loro dicono, la nostra policy è che se tu ti compri il nostro cellulare devi star sicuro che nessuno ci mette il naso se non vuoi tu. È un po' difficile poi scardinare questo. Ci sono riusciti, mi sembra, alla fine, ma non è stato facile. Ci sono riusciti, ma attraverso delle attività di tecniche proprie, quindi senza la cooperazione della Apple. Certo. L'hanno fatto Stati Uniti su Stati Uniti. L'hanno scardinato, diciamo la verità, la Apple non gli voleva dare i codici di accesso. Assolutamente no, ma non gli ha ceduti la Apple i codici, e nemmeno un giudice è stato in grado di imporglielo. Anche per quello è il loro core business, che il fatto che stai sicuro, dice, poi dopo chi li compra più i nostri telefoni? E non c'è una copertura, non c'è una copertura giuridica che poteva imporre loro, da parte delle autorità, il fatto di dover concedere comunque un ingresso a quello strumento. Sentiamo Emanuele. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Emanuele. Io volevo sottolineare questa cosa. Io faccio l'avvocato e mi è capitato di sporgere querela per conto di un cliente che era stato sessualmente ricattato per un episodio avvenuto via webcam. Un cliente un uomo in questo caso? Sì. Ho avuto però l'impressione, perché poi c'è stata l'archiviazione, che la procura non avesse la strumentistica per risalire poi a chi aveva effettivamente posto. Vediamo com'era il caso. Quindi una persona che aveva, è stato registrato, perlomeno gli erano state. È stato registrato con una webcam durante un atto sessuale e poi è stato ricattato. In cambio di soldi, è un'estorsione, chiedono soldi. Un'estorsione. Lui ha sporto regolare querela, però la procura ha archiviato dicendo non siamo in grado di risalire al responsabile. E quindi c'è un'impunità di fondo rispetto a questo tipo. Sentiamo il dottor Gabrielli. Sì, in questo caso penso la procura non aveva strumenti di base per capire da dove arrivasse questa cosa qua, probabilmente. Marco, con ogni probabilità, ed è quello che riscontriamo nelle casistiche più comuni, di fatto chi si pone in una dinamica di questo tipo, cioè il delinquente che approccia, riceve il video e poi ricatta, lo fa cercando di tutelarsi dal punto di vista dell'anonimato. È un professionista e la rete lo concede. Molto probabilmente si sarà registrato un profilo social falso sfruttando una mail che permette di mantenere l'anonimato, si sarà connesso attraverso dark web allo stesso social e avrà interagito garantendosi sostanzialmente l'anonimato dal punto di vista tecnico. Quello che noi riusciamo a fare in determinati casi è sfruttare alcuni errori tecnici che vengono posti in essere da chi fa questo tipo di attività ed eventualmente arrivare al fenomeno globale, cioè in quel caso magari in quella estorsione non ci si arriva, ma molto probabilmente in altre estorsioni poste in essere dallo stesso soggetto qualche errore sarà stato commesso e in quel caso riusciamo a ricostruire. Ricostruire significa partire da indizi tecnici che ci permettono in qualche modo di arrivare alla paternità effettiva di quel comportamento, nonostante le cautele tecniche osservate da chi fa questo e lo fa in maniera accorta. Però forse va il caso di dire che quando si arriva a un'estorsione sistematica non è più la vendetta sessuale, innamorato, tradito. È un'organizzazione che lo fa di mestiere quello, quindi... È un'organizzazione criminale vera e propria, con soggetti strutturati, con compiti ben precisi, che hanno strumenti informatici tali che gli permettono l'anonimato, salvo l'errore che spesso su grandi numeri si paventa. Sentiamo Daniela. Daniela, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Dunque, io sono la mamma di una ragazza di 14 anni e come tutte le madri preoccupata perché mia figlia usa la rete attraverso tantissimi dispositivi, il computer e il telefono, mi sono interessata e è bastato cercare insomma sul motore di ricerca più famoso del mondo per trovare degli strumenti per monitorare cosa fa mia figlia sui suoi strumenti, sui suoi device, che sia un computer o che sia uno smartphone. Quindi in maniera molto trasparente mia figlia sa perfettamente, insomma, anche per la sua tutela. Cioè lei la sta monitorando, sua figlia lo sa che è sotto monitoraggio? Assolutamente sì, anzi mia figlia quando ha ricevuto lo smartphone e il suo primo iPad con me ha firmato una sorta di contratto dove ha accettato di insomma aderire e di seguire certe regole. Cioè lei può guardare la cronologia di sua figlia, può guardare tutto? Io posso guardare tutta la cronologia, posso guardare lo scambio di messaggi, posso guardare le immagini, posso guardare le chiamate, quindi lei ha anche le chiavi d'accesso ai suoi, diciamo, alle sue applicazioni WhatsApp? Assolutamente sì, e mia figlia ne è perfettamente consapevole, anzi da questo punto di vista è protetta e le posso assicurare che è capitato un episodio in cui attraverso WhatsApp mia figlia ricevesse un messaggio non adatto, se posso usare questo termine. Cioè qualcuno che la descava su WhatsApp? Non la stava adescando, le stava comunque dicendo delle cose che non si dicono alla quattordicenne, quindi questa persona è stata bloccata. E lei ha la certezza matematica, sua figlia non possa eludere da questo suo controllo? Mia figlia usa dei device che le vengono dati da me, per cui a meno che non abbia un altro telefono, no, non può farlo. Sentiamo il dottor Gabrielle. Questa è una madre che ha fatto comunque quanto tecnicamente nella regola è possibile fare. Secondo lei è sufficiente o perlomeno questo è auspicabile? Ma questo è assolutamente auspicabile. Ha fatto quello che fa una madre di solito quando, tra virgolette, guida il debutto sociale del proprio figlio. Cioè un rapporto di fiducia, la figlia lo sa, non è che la spia, dice la mamma vuol saperlo. Come succede nella normalità, parliamo dell'ordinario, alle prime feste sicuramente un ragazzo viene accompagnato dai genitori e poi ha sempre un orario diverso che via via viene incrementato, poi magari il controllo dei genitori sulla festa verrà meno nel momento in cui il ragazzo si è formato e strutturato da un'età in cui gli è permesso o ha una consapevolezza tale che può gestire il proprio tempo libero. La stessa stregua si può fare in rete, i primi passi vengono guidati, quando uno ha un potere contrattuale maggiore, diciamo, quando si interagisce con un ragazzino di una certa età, gli si riesce ad imporre delle regole, piano piano le regole poi verranno meno. È chiaro che occorre un rapporto di fiducia, va costruito nel tempo, non è che si improvvisa. La ringrazio dottor Gabrielle, ringrazio anche Elena Stramentinoli, ricordo la conduttrice del programma Connessioni Pericolose, che potete seguire anche domani sul canale Crime Investigation. Alla prossima!